ha detto c'è, eppure a gambo mille bene fa, rinfresca l'orzio vino fa felice, è solo l'acqua se da fa passare. Ma un milione getta e una volo gomma a me, non vanno a sapere niente e campano con caffè. Bello caffè, sulla Napoli santa fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Cattore caffè, casa senta passa la città, io ne uso le cose con me, ogni tanto sono bambiglia. Come nasce tu sento bebè, cadici un non poche caffè, e l'inglese si scorda tutte, si viene a sapere, espresse carea. Bello caffè, sulla Napoli santa fa, e a così sei spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scappa, se bevo un caffè. Per bevere un caffè se trova scusa, io l'offro a nata e nata l'offro a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, so già se tazze sono appena tre. Ma mentre faccio punta, un'amica mi chiama qui e aspetto un momento per vimmerci un caffè. Oh, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Cattore caffè, casa senta vasta città, io nervoso, nervoso con me, ogni tanto sono bambiglia. Come nasce tu sento bebè, cadisce quel meno pochi caffè, e l'inglese si scorda dove si ve la sapere, espresse carea. Oh, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, io così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, se scatta e se bevo caffè, da giornata, una tazza buonata, che crema da rabbia, sta la frega.